volte è scontrosa, a volte più dura, ma la vostra mente viaggia sicura. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. Questo cammino Gigi D'Agostino. Tutte le passioni sono esagerazioni, anzi, sono passioni soltanto perché esagerano. Rock. Il cammino di Gigi D'Agostino, il tuo antidepresso. Rimani connesso. A volte è molto meglio viaggiare che arrivare. Anonimo. Un viaggio incontaminato, un sentiero innamorato, la semplicità di un bambino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il viaggio è una specie di porta attraverso il quale si esce dalla realtà. Guy Maupassant. Este programa musical mental, ole, me gusta mucho más. Que cacho. Se tu dai amore, trovi amore. Amando le persone che incontri, aiuti a far nascere l'amore in loro. È l'amore che ama l'amore. È l'amore che ama l'amore. Igino Giordano. Volevo fare un particolare ringraziamento a tutti i ragazzi che frequentano il mio forum, che è situato all'interno del mio sito gigidagostino.com. C'è questo forum, che è uno spazio dedicato alle persone che vogliono confrontarsi, che vogliono curiosare, o magari vogliono sapere qualcosa in più su quello che riguarda la mia musica, le mie storie, tutte queste robe qua, oppure l'organizzazione per le serate, i vari raduni nei club o chissà dove ci riferiamo. Io a volte inizio a dire le cose e so precisamente cosa cacchio sto dicendo, ma poi mentre parlo e poi dopo. Un buon viaggiatore è colui che non sa dove sta andando. Lin Yutang. Questo è il cammino che ci gira intorno. Un piccolo paese fuori dal mondo. cammino di Gigi D'Agostino. Tutti insieme, a tempo, alla faccia di chi ci vuole male. Oh! Put up. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta. Muovi un po' la testa. Di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. A volte è scontrosa. A volte è più dura, ma la vostra mente viaggia sicura. Agoso, fammi una mixata, va. Sì, ho capito. Dai, sì. Cammino del Gigi D'Agostino. Movimenti incoerenti. Movimenti incoerenti. We'll be right back. siamo quello che pensiamo. Tutto ciò che siamo nasce dai nostri pensieri. Siamo noi che creiamo il nostro mondo. Buddha. Forte. Il cammino di Gigi D'Agostino batte forte. La notte di Capodanno, il 31 dicembre, ci vediamo a Rimini, discoteca Altro Mondo. Io comincio a suonare alle ore 20. Se arrivi tardi ti rigo i denti. La penna e scrivi il numerino 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Potete dire quello che volete a chi volete. Attraverso questo cammino potete lanciare il vostro pensierino. La cosa più bella che possiamo sperimentare è il mistero. È la fonte di ogni vera arte e di ogni vera scienza. Albert Einstein. Nei malgata snare garfano. Inizio che disdisdi. Non imbecchi. Che dici? Il cammino di Gigi D'Agostino. Una fragranza per l'ambiente. Ho un po' di perplessità. Mando la pubblicità. Riprendiamo il nostro cammino. Passo lento ma violento, e me passa lo sgomento. passo lento ma violento. Ciao, sono Gigi D'Agostino. T'amato e bizzarro. Il tuo sapere come il tuo orologio in una tasca privata, non estrarlo e non scuoterlo soltanto per far vedere che ne possiedi uno. Lord Chesterfield. Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. Si può scegliere il modo di morire, e nemmeno il giorno. Si può soltanto decidere come vivere. Ora, John Beats. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O. La vera felicità costa poco e se è cara non è di buona qualità. Chateaubriand. D'Agostino.

mandare i vostri sms. Il numero è il seguente: 333-64-67-662. Solamente chi è forte è capace a perdonare. Il debole non sa né perdonare né punire. Gandhi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel mondo che non c'è. della pubblicità. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Elettronico 2006. Questa sera, martedì 26 dicembre 2006, alla discoteca 2 a Cigliano, vicino Torino, suona Gigi D'Agostino. Ci vediamo lì. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante.